Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Primo argomento della settimana con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre è un argomento che va a chiudere un cerchio iniziato addirittura nell'estate del 2012. Agosto esattamente, ne avevamo parlato l'estate scorsa, a luglio torniamo a chiudere il cerchio purtroppo in modo negativo. La vicenda è quella di Windjet. Ben trovato al presidente dell'Adico Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, una breve cronistoria. Agosto 2012, ricorderete tanti viaggiatori in partenza o rientro dalle vacanze, voli improvvisamente cancellati per le difficoltà finanziarie, il crack proprio dell'azienda. A luglio avevamo titolato nel nostro intervento, luglio di quest'anno, poche speranze di scarsi rimborsi, e adesso siamo alla fine di questa vicenda. Che si chiude come, Carlo? Sì, come hai detto Mirko, è stata una cronistoria molto intensa che l'Adico ha seguito molto da vicino, perché moltissimi consumatori residenti nella regione Veneto si sono rivolti a noi, in quanto c'era una linea molto importante che collegava Venezia con Catania ed era una linea low cost che ha permesso a molte persone, a molti utenti di poterla utilizzare anche in particolar modo nell'occasione delle vacanze, delle ferie. Oggi è di qualche giorno fa, purtroppo, ma solo di queste ore che l'Adico prende nota con disappunto il fatto che questa notizia sostanzialmente si chiude. Per fortuna dobbiamo dire, ma l'unico aspetto positivo, con non un fallimento della compagnia, però certamente per tutte quelle persone, per tutti quei consumatori che avevano speso centinaia di euro per i biglietti e che aspettavano una qualsiasi possibilità di rimborso, sostanzialmente oggi diventa anche sconveniente poter accedere a qualsiasi forma di restituzione della cifra. Quindi già non c'era speranza di avere indietro tutto il prezzo del biglietto, questo l'avevamo già detto nel corso dell'estate. Adesso coloro che avevano acquistato i biglietti Winjet e poi non li hanno potuti utilizzare, che cosa potranno ricevere indietro? Praticamente il Tribunale di Catania ha stabilito, nell'occasione del concordato che hanno fatto, che la compagnia ha accettato su proposta quindi del Tribunale di Catania, del commissario nominato da parte dei giudici e su quelli che sono stati le nuovi assetti organizzativi che probabilmente hanno indotto a non decretare il fallimento, e hanno stabilito che, essendo i consumatori meno privilegiati in quella che è un ammontare complessivo di indebitamento che la compagnia aveva nei confronti di molti debitori, e purtroppo si vedranno restituire solamente il 5% delle somme spettanti. Quindi, in termini di cosa significa questo? Che se una persona, una famiglia, come erano per lo più le persone che si sono rivolte all'Adico, hanno speso, non so, 400 euro, 500, 600 di biglietti per poter andare in vacanza, per poter rientrare o prenotarla, e il 5% di 500 euro sostanzialmente diventano 25 euro. Quindi capiamo come in questa vicenda, per l'ennesima volta, il consumatore è risultato quello maggiormente beffato. E nemmeno i grossi creditori credo abbiano avuto molto, forse un poco meno di metà. Normalmente, vedi Mirko, l'Adico ha avuto diverse situazioni in cui ha partecipato dell'insinuazione del passivo e ha cercato di salvaguardare gli interessi dei consumatori. Ricordiamo, c'è stata la vicenda di Todomondo molti nel 2008, poi c'è stata la vicenda dei viaggi del ventaglio, c'è stato il fallimento della Tigos, dopo c'è stato il fallimento insomma della Maier, insomma le compagnie aeree, le agenzie di viaggio, ne abbiamo assistite di tutti i colori. Certo, adesso ci siamo trovati con questa compagnia Winjet e sostanzialmente pensavamo che insomma si potesse ottenere un risultato positivo o migliore certamente rispetto a quelli che normalmente la legge italiana, come al solito, non tutela. E purtroppo dobbiamo dire, malgrado l'Adico ha mantenuto una posizione di discordanza rispetto a quella che era la proposta avanzata dal Tribunale risarcire un 5%, purtroppo alla fine hanno deciso questo. Cosa significa? In soldoni, che un consumatore deve farsi due conti: se procede a fare un'insinuazione passivo o avanzare istruire zona pratica per ottenere un 5%, quando dei casi che per esempio noi abbiamo all'Adico oscillano tra i 400 e i 700 euro sostanzialmente, che si quantificano normalmente sul costo del biglietto. Peggio ancora è andata per chi doveva partire e si è vista la vacanza rovinata. In questo caso qua purtroppo i giudici non hanno voluto riconoscere nulla a riguardo e c'è solo la speranza di potersi rivolgere a qualche tuo operatore, ma crediamo che la partita sia sostanzialmente chiusa anche in un completo disappunto nostro. Anche perché ormai è passato un anno e mezzo da questa vicenda, quindi arrivare a recuperare eventualmente, se è conveniente, solo il 5%, probabilmente in tanti cosa faranno? Rinunceranno, secondo te, anche a questo 5%? Ma dobbiamo capire, amico, che innanzitutto il tribunale competente è di Catania, quindi già qua dobbiamo renderci conto la difficoltà che abbiamo per poter interagire con questi signori. Certamente non è che questo sia impossibile, però la corrispondenza, le raccomandate, le domiciliazioni e quant'altro inducono veramente a scoraggiare qualsiasi iniziativa per un 5%. Il 5%, come ho detto, si tratta di valutare se per chi, per esempio, è il caso peggiore, come una famiglia che aveva pagato 700 euro, 5% siamo nell'ordine di poco più di 30 euro. Capisci, meno che con 30 euro uno ci paga le spese di spedizione di un plico sostanzialmente, e non è certamente sufficiente per fare un'insinuazione del passivo. Quindi una cifra che certamente sembra quasi stata stabilita per scoraggiare tutte quelle persone che avanzano questi soldi, e ripeto, sono veramente tante tante, perché la linea Venezia-Catania era una linea molto frequentata, una linea low cost che permetteva a molte persone veramente di potersi spostare a prezzi contenuti, soprattutto in un'occasione, e purtroppo non è stata la prima, come abbiamo detto, che è capitata durante la vigilia delle vacanze, e purtroppo le vacanze sappiamo che quando vengono rovinate è difficile recuperare, oltre a quelli che sono i costi. E per ultimo quelli che invece hanno dovuto rientrare a spese loro, perché si sono visti proprio la soppressione dei viaggi da oggi a domani senza nessun preavviso annunciato. Chiudendo con una amara battuta, potremmo dire che questi soldi hanno preso letteralmente il volo e non sono stati utilizzati. Fra due giorni nuovo argomento da approfondire insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Grazie al presidente Carlo Garofolini e buon proseguimento. Grazie a te, Mirko, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.